Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati in nuova puntata di Zibaldone qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Capirete subito di chi parleremo quest'oggi, immagino. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Più là tutto è cambiato, non abito più là, ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. E beh, la gatta Gino Paoli, non c'è bisogno nemmeno di presentarla. Forse sì di dire di quando è questa versione, era del 2012, una dozzina d'anni fa, accompagnato da un grandissimo pianista come Danilo Rea dall'album Due come noi, che ma do subito il bentornato e auguro buon pomeriggio al nostro caro Banzo. Banzo, insomma, forse non c'è bisogno neanche di dirlo a chi dedichiamo questa puntata, però ovviamente lo lascio dire a te. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Effettivamente è abbastanza pleonastico perché questo non è un omaggio underground, effettivamente già tutta l'Italia ha avuto modo di rendere omaggio a Gino Paoli, che è scomparso lo scorso 24 marzo all'età di 91 anni, ma insomma noi ci prendiamo, abbiamo sempre questa caratteristica di prenderci un po' il nostro tempo per concepire un omaggio a modo nostro, diciamo alle nostre condizioni. E quindi eccoci qui con questo omaggio a Gino Paoli, che per un programma anche con la storia e la tradizione di Zibaldone è inevitabile, insomma il nostro legame col cantautorato è cosa nota. Passo a denunciare il titolo, che è Vivere ancora, omaggio a Gino Paoli. E ho scelto per il titolo una canzone che molto banalmente amo tantissimo, e forse la mia preferita di Gino Paoli, non è fra le più note del primo periodo, però diciamo che al di là del contenuto del testo che sentirete, è comunque è un titolo che può assumere altri significati, perché ci indica chiaramente che la musica di Gino Paoli non verrà certamente meno con la sua scomparsa. 2012, tra l'altro, è l'anno della registrazione del brano con cui abbiamo aperto lo Zibaldone di quest'oggi, è anche l'anno in cui Gino Paoli è stato ospite a Zibaldone. Ricordo che l'avevo intervistato in un taxi di Barcellona quando era qui nella Ciudad Condal per un concerto che fece all'Auditori, un concerto in cui cui tra l'altro era stato anche accompagnato da Danilo Rea, e fu molto simpatico e gentile in questa chiacchierata dove ci raccontò tante cose, tra cui anche l'avvenimento che in fin dei conti è legato al brano Vivere Ancora. E a questo proposito, Banzo, insomma, sulla gatta non c'è molto da dire, perché credo che tutti lo sappiano. C'è una cosa da dire, Steven. Dilla. Ci tenevo molto. Il nome della gatta che ha ispirato la canzone è un dettaglio importante. La gatta si chiamava Ciacola, cioè in veneto chiacchiera, chiacchiera. E quindi sì, diciamo che già fra gli anni 50 e 60 vigeva, c'è questa piccola testimonianza, l'uso di dare nomi bizzarri agli animali domestici. Ecco, questo sicuramente sì. Tra l'altro, una cosa che da dire anche, che proprio in quel 2012, visto che la canzone divenne molto famosa anche tra i più piccoli, Paoli la trasformò in un libro da lui stesso illustrato per bambini di età prescolare. Ma andiamo avanti, dal 62, quando uscì all'inizio questo brano, anzi no, il 60 se non erro adesso. 1960, esattamente. Poi insomma, grandi successi soprattutto nei tre anni successivi, il 62, anche il 64, eccetera, e poi esce anche proprio in questo 64 Vivere Ancora. Noi ce l'andiamo a sentire e poi continuiamo questo viaggio attraverso la musica di Gino Paoli con delle selezioni che, come vedrete, sono in alcuni casi abbastanza particolari e forse inaspettate. Vivere ancora soltanto per un'ora, e per un'ora averti fra le braccia, e far sparire per sempre dal tuo viso ogni incertezza che ti tormenta ancora. Vivere ancora soltanto per un'ora, e per un'ora vedere sul tuo viso tutto l'amore che ti ho saputo dare, la mia vita che ora è solo tua, e puoi restare vicini ad occhi aperti ad aspettare che dalla finestra giunga la luce di un giorno che ci veda stretti abbracciati con gli occhi dentro agli occhi, poter vedere in una stanza buia con gli occhi chiusi quello che vogliamo, poter sentire vicino alla mia mano i tuoi capelli. Il 1964, questa Vivere Ancora collaborazione, non era il primo caso, con il grandissimo Ennio Morricone, colonna sonora di un film, segnava anche Fausto, innanzitutto Buon Pomeriggio, il passaggio all'RCA a seguito di Nanni Ricordi, che aveva prodotto i primi album, le prime canzoni di Paoli, come anche La Gatta. Ciao Steven, buon pomeriggio a tutti. Sì, era un periodo, diciamo, per usare un eufemismo, intenso per Paoli, perché nel giro di pochi mesi passa l'RCA, ottiene questo successo strepitoso con Sapore di Sale, poi anche con Che Cosa C'è, sempre arrangiata da Morricone, quindi brani popolarissimi, e poi ha una vita personale, diciamo, quantomeno complicata, si divide sentimentalmente fra la moglie e una giovanissima Stefania Sandrelli che ispira anche alcune di queste canzoni, e fra alcol, auto distrutte, c'è pure questo tentativo di suicidio che tutti ricordano nel 63, che lo lascerà per tutto il resto della vita con una pallottola troppo vicino al cuore per poterla rimuovere. Non sbaglia forse chi definisce Paoli forse la vera prima rock star italiana, anche se non sul piano musicale, però sul piano dello stile di vita. È un brano che accompagna il secondo film di Bernardo Bertolucci, Prima della Rivoluzione, che è una versione della Certosa di Parma di Stendhal, trasportata nella Parma alla vigilia del 68. E quindi è un brano che caratterizza, diciamo, la nouvelle vague italiana. E il brano, con questo suo crescendo di archi proprio tipicamente morriconiani, è rivoluzionario anche lui, ma sul piano testuale. Sul piano testuale, perché se ci pensi, un'immagine come i tuoi capelli sparsi sul cuscino oggi non ci dice quasi nulla, ci sembra l'immagine più innocua del mondo. Invece nell'Italia del 64 raccontava la mattina dopo la notte d'amore e rappresentava la malinconia e il dolore dell'assenza della persona amata. Noi andiamo avanti, 66, succedono tante cose, ma ve le raccontiamo dopo aver ascoltato questo brano, MT. Chissà se lo conoscete. MT, MT, sei spacciata se fai così. E metti, sei finita se fai così. E se ci sono due Germanie, ci sono due core e due Gerusalemme, due Cine e due Vietnam. Perché mai di amore vero deve essercene uno? E perché mai di amore vero deve essercene uno? E metti, sei spacciata se fai così. E metti, sei finita se fai così. Se ci sono due Germanie, ci sono due core e due Gerusalemme, due Cine e due Vietnam. Perché mai di amore vero deve essercene uno? E perché mai di amore vero deve essercene uno? E metti, sei spacciata se fai così. E metti, sei finita se fai così. E Eravamo rimasti al 64 con appunto la canzone di prima, i grandi successi di cui noi, avete capito, no, stiamo mandando solo alcune canzoni delle più note, altre andiamo a scovare cose magari meno conosciute. Nel 65 poi è arrivato il primo album dal vivo della canzone italiana, Gino Paoli allo Studio Ana, avevamo parlato anche proprio qui a Zibaldone in quel 2012 in cui abbiamo avuto Paoli come ospite. E poi ecco, Fausto, Paoli lascia la RCA, si accasa la CGD, torna a Sanremo, però il suo brano La carta vincente sarà eliminato e non avrà successo. Insomma, inizia una stagione un po' declinante a livello di popolarità di Paoli, che però porta avanti dei progetti artisticamente molto interessanti, come il brano che ci siamo ascoltati. Esatto, questa è la sua prima colonna sonora per il teatro, quindi abbiamo parlato prima del cinema, in questo caso abbiamo la colonna sonora di questa commedia sperimentale scritta da Luigi Squarzina, che si intitola appunto M.T. M.T. sta per Maria Teresa, quindi è una sigla, che è la protagonista interpretata da Lea Massari, che interpreta anche alcuni brani della colonna sonora, ed è una commedia sperimentale che appunto anticipa anche se i temi del 68, parlando di un triangolo amoroso molto complicato fra appunto Maria Teresa e Caio, questo intellettuale da salotto, e il giovane industriale Claudio, quindi naturalmente tematiche che anticipano la contestazione, fra l'altro un'opera che va incontro a un processo per vilipendio della religione cattolica, perché all'epoca i magistrati andavano a quanto pare a vedere i film o andare a teatro con la denuncia pronta in tasca, quindi il mattino dopo partivano le denunce per oltraggio al pudore o vilipendio della religione, che definirà fortunatamente non nulla di fatto. La cosa interessante è che qui Paoli tocca tematiche anche attuali di descrivere questo triangolo amoroso, perché c'è questo riferimento interessante, appunto, che avete sentito, se ci sono due Germani, ci sono due Coree, due Gerusalemme, perché mai di amore vero deve essercene uno, e fa un po' tristezza pensare che a 60 anni dopo siamo purtroppo nella stessa situazione per quanto riguarda le Coree, le Cine e soprattutto Gerusalemme. Eh sì, è proprio così. Noi adesso facciamo un salto agli anni 70 e troviamo una cover in italiano di Paoli. Paoli insomma ha cantato cantautori anche appunto di altre latitudini, e tra cui anche Joan Manuel Serrat, e non l'ha fatto solo per una canzone. Sentitevi questa, Mandate a... Sono proprio stufo di dire sì, di stare sempre in fila con altri sei. I semafori rossi non sono Dio, io voglio far la strada che voglio io. Se poi voi state qui, andate a... Se a Milano morisse oggi Gesù, avrebbe un funerale con altri due. La sua vita a puntate farebbe stop, forse la leggereste o forse no. Neanche lui ha un posto qui, ma andate a... La donna che io avevo chiedeva se stavo attento quando morivo in lei. La morte porta vita, dicevo io. La vita costa soldi, diceva lei. Tutto un prezzo ormai qui, ma andate a... Il mondo vuole tutto quel che tu hai, ma non si accorge mai di quel che gli dai. Il mondo ti dà tutto quel che non vuoi, ma poi vuole occuparsi dei fatti tuoi. Prendo su e vado via, mandate a... Mi sono proprio rotto e vado via. Dove c'è un uomo buono è la patria mia, dove non serve carta d'identità, dove la gente t'accetta per quel che sei. E se voi state qui, andate a... Ma se voi state qui, andate a... E Era il 74 quando uscì questa Mandate A, era Vagabundeare il titolo dell'originale di Joan Manuel Serrat, l'album I semafori rossi non sono Dio, che è anche un verso che avete sentito. Banzo, in quegli anni, i primi 70, in realtà Gino Paoli era un po' fuori dal grande circuito della musica e si è ripreso poco a poco anche a partire da progetti come questo. Beh sì, lo spiegavi anche, lo spiegavate anche per il brano precedente, una fase di relativa flessione commerciale dalla quale Paoli comincia a riprendersi almeno, no, comincia a riprendersi almeno per quanto riguarda il successo di critica, perché poi quello di pubblico arriverà, tornerà un po' più tardi, mi sono contraddetto, però ecco, diciamo appunto, a partire dal 71 comincia una fase un po' diversa che ad esempio ha una tappa importante nel 72 con l'album Amare per Vivere, che contiene covers di Brassens, Leo Ferré, ma anche due brani di Juan Manuel Serrat. E appunto arriviamo al 1974, che è l'anno dei Semafori Rossi Non Sono Dio, che è uno dei titoli più, diciamo, peculiari forse della storia della musica italiana, meno banali sicuramente, che è un disco appunto tutto dedicato a cover in italiano di Serrat, dai dischi del 70 e 71, quindi Miniñez e Mediterraneo, che vengono adattati da Paoli insieme al paroliere Lorenzo Raggi, e diciamo che c'è un'operazione, se vogliamo, di adattamento contestuale più che di traduzione letterale, perché per esempio in Vagabundear, appunto tradotta con Mandate A, ma andate a, sono tre parole, diciamo che c'è un elenco di situazioni e modi di vivere che sono sgraditi alla voce narrante, però il contesto è diverso perché sono calati nella Milano del 1974. È un album che, come accennavo, ottiene un certo successo di critica perché sarà presentato alla primissima rassegna della canzone d'autore di Sanremo, dove riceverà il premio Tenco alla carriera. E a me questa cosa fa un po' sorridere, non perché evidentemente non lo meritasse già nel 74, però semplicemente per il fatto che nel 74 la carriera di Paoli era ancora relativamente breve rispetto a poi quella che sarà, perché parliamo di oltre 60 anni di carriera, però è già è un segnale chiarissimo del fatto che già nei primi 15 anni aveva lasciato pietre miliari e un lascito artistico colossale. E soprattutto con altre figure chiave genovesi, no? La cosiddetta Scuola di Genova aveva aperto una nuova tappa della canzone italiana, insomma, in fin dei conti la canzone d'autore possiamo dire che nasce a Genova proprio tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, e Paoli è uno dei protagonisti di questo di questa svolta che evidentemente poi è stata rappresentata dal premio Tenco. Rimaniamo negli anni 70, esattamente nel 77, con questa canzone che si intitola Oggetti. Quante volte un uomo può sbagliare prima di diventare un pezzo rotto che si può trascinare in giro come un vestito vecchio e stanco da una prigione a un manicomio. Quante volte la donna può truccarsi prima di diventare un frutto aperto filmato in un santino sceno in tasca a un uomo senza amore. Quante volte mio figlio berra coca prima di non avere più l'idea di che sapore ha l'acqua fresca. Quante volte saprà parlare libero malgrado le abitudini inutili degli uomini. Quante volte anch'io dovrò sbagliare senza sapere dove sto sbagliando, sapere chi mi fa sbagliare. Libertà amante senza scrupoli. Ancora un poco aiutami a stare insieme a te. Un album molto particolare, Il mio mestiere, anno domini 1977, che si chiudeva proprio un doppio LP con questa Oggetti Fausto. Tra l'altro anche qui in successo commerciale, invece grandi riscontri di critica, tornerà appunto anche al Tenco l'anno successivo nel 78 in un recital che aveva portato in giro per i teatri. Ecco, una proposta diciamo particolare di Paoli, che in quel momento insomma già gli si domandava: ma perché non ci fai le nuove versioni dei tuoi grandi successi di 15-20 anni fa? Eh beh sì, perché 77 è un anno di esplosione del Revival, no? In televisione c'era Happy Days, il successo di American Graffiti, quindi c'era questa idea dei favolosi anni 50, i mitici anni 60, no? Sono espressioni che nascono in quegli anni, e quindi ai cantautori ormai diciamo di vecchia scuola come Paoli le case discografiche chiedevano: facci i tuoi vecchi successi, rifalli, riproponi La Gatta, riproponi, insomma, brani che conosciamo tutti. Ovviamente Paoli va nella direzione assolutamente opposta, realizza un doppio disco, penso la opera più mastodontica a livello di inediti della sua carriera, sono 18 canzoni, dove praticamente i temi classici suoi, che erano la donna e l'amore, come abbiamo già sentito, rimangono in secondo piano e si affrontano riflessioni amare, disilluse, si parla di omosessualità, di retorica politica, delle difficoltà del mestiere artistico, come nella title track Il mio mestiere, fino anche si parla anche della morte. E in questi Oggetti diventa un inno alla libertà contro l'illusione del consumismo. Naturalmente si parla della Coca-Cola, comunque di come il consumismo stesse vincendo, e quindi la riflessione amara. E strumentalmente c'è questo uso, hai sentito, molto creativo delle percussioni, che sono opera di Mauro Paoluzzi, che vedi, tornano i Nuovi Angeli, ancora Zibaldone era il batterista dei Nuovi Angeli, sarà poi il batterista dei Vecchioni, e fra l'altro collaborerà a lungo con Gian Nannini, scrivendo per lei il brano America, la musica è sua. Paoli non farà un album di inediti fino al 1984, quindi stavolta sta fermo per 7 anni, però in realtà un disco poi lo farà nell'80, ma dedicandolo a un carissimo amico scomparso poco tempo prima. Eh sì, che è Piero Ciampi. Ci andiamo ad ascoltare Il Merlo, uscita proprio come tu lo dicevi nel 1980. Mi canti qualcosa, tristezza fra noi. Sono disteso sul letto e qualcosa non va. Tu, Merlo, cantami una canzone da portare all'editore, perché sono senza una lira. Merlo, ripetila ancora, è bella, lo sai. Ripeti lento che vado al piano a suonare. Sono contento di non aver dato alcun seguito a quel peccato di volerti un giorno mangiare. Yattatta, yattattira, tattira, yattattira, tarattattira, tattira, tattira, tattira. Sono felice. felice di questa collaborazione. Vado a fissare una sala per un'incisione. Beviamo insieme un po' di champagne. Il mio cuore mi dice che va, i problemi finiscono qua. Ya-ta-ta, ya-ta-ta-tira, ta-tira. Ya-ta-ta-tara, ta-tira, ta-tari-ti-ta. Ya-ta-tiri-ti-ti, ya-ta-ta-ra-ra. Ya-pa-pa-pa, ya-ta-tira. Ya-ta-ta-tira, ta-ra-ta-ti. Ya-pa-tira-ta-ta-ta. Un arrangiamento molto particolare, Banzo, per questa Il Merlo di Piero Ciampi, appunto nella versione di Gino Paoli, dall'album A tutte le carte in regola. Ricordo che Piero Ciampi era morto proprio all'inizio di quel 1980, il 19 gennaio, a soli 45 anni d'età. Sì, esatto, è per quello che nel 1980 esce l'album come un omaggio immediato. E per quanto riguarda il sound, giustamente hai sottolineato, un album interamente di cover di Piero Ciampi, e a livello di sound diciamo che cerca di distanziarsi dagli originali con la squadra dei musicisti che sono principalmente napoletani. Abbiamo in primis Franco Del Prete dei Napoli Centrale, Elio Danna, ex Osanna, però nell'80 i tempi del progressive erano abbastanza tramontati e quindi partecipavano a progetti diversi. E comunque sì, un omaggio non casuale, perché Ciampi, benché ovviamente fosse livornese, banalità che forse non c'è bisogno di ricordare, era diciamo attivo partecipante alla scena genovese ed era amico di Ciampi, dal quale era del quale era assolutamente coetaneo, quasi perfetto, perché li separavano 5 giorni reali, cioè Paoli era più vecchio di Ciampi di 5 giorni. E questi, negli anni iniziali, la collaborazione di Fratelli Reverberi e così via, Paoli aveva fatto ottenere un contratto a Ciampi, che però non lo mise a frutto, perché non scrisse neanche un brano e dilapidò il ricco anticipo che gli aveva concesso la RCA. Però l'RCA sarà comunque l'etichetta con la quale Ciampi vivrà la sua rinascita artistica a partire dal 1970, accolto dal patrone Ennio Melis, e accompagnato la figura artistica di riferimento, il compositore e pianista Gianni Marchetti. Gli anni 70 di Ciampi sono poi forse gli anni che fanno il vero Ciampi, anche se io adoro le canzoni di Piero l'Italiano, per esempio, però diciamo che forse a livello di immaginario. E Paoli appunto decide praticamente in presa diretta di omaggiare questo grandissimo con questo sound molto personale. Noi adesso facciamo un salto in avanti di un decennio, arriviamo proprio in un altro momento anche della carriera di Paoli, un Paoli che raccoglie il frutto diciamo del successo diciamolo così nazional popolare. 1991, Un sorriso gratis, questo è il titolo della canzone che ci ascoltiamo ora. Era già un po' di tempo che non mi girava di parlare con gli altri, che non mi andava giù di dire se, che avevo voglia di gridare basta. Era già un po' di tempo che andavo in giro con la testa bassa, senza guardar nessuno intorno a me, per non vedere la mia accusa in faccia. Era già un po' che non speravo più, ma poi per caso t'ho incontrato chi? Con un sorriso mi ha rimessa al mondo, con un sorriso solo, con un sorriso che non mi aspettavo, con un sorriso gratis. Ad un sorriso adesso che rispondo, se non vuol niente in cambio. Mi son seduto e usato tutte le lacrime che non ho pianto. Sembra impossibile incontrare chi cammina sullo stesso marciapiede e ti dà il passo con semplicità e ti sorride senza una ragione. Così si cambia la fisionomia di una giornata cominciata male. Sembra impossibile che lui ci sia e che ti faccia rivedere il sole. Era già un po' che non vedevo più chi sorridendo mi dà l'amnistia. Con un sorriso marimessa al mondo, con un sorriso solo, con un sorriso che non mi aspettavo, con un sorriso gratis, ad un sorriso adesso che rispondo, se non vuol niente in cambio. Mi son seduto e ho usato tutte le lacrime che non ho pianto. È un Paoli più pop, questo del 1991, gli arrangiamenti come avete sentito sono altri. L'album Matto come un gatto è un disco, Fausto, che arriva dopo appunto il momento forse di maggiore successo popolare di Paoli, il tour con Lavanoni, la collaborazione con Zucchero, il ritorno al Festival di Sanremo nell'89. Ecco, nel 91 esce questo disco che è sicuramente più pop e che si apriva con una, forse una delle canzoni più note al grande pubblico di Paoli. Beh sì, credo che tutti conoscano Quattro amici al bar, che è un brano celeberrimo, era proprio un classico tormentone estivo, tra l'altro vince il Festival Bar, una cosa che 10 anni prima, no, ai tempi dei dischi degli anni 70, sarebbe stato impensabile. Paoli che vince, che va in TV su Canale 5, su Italia 1, le reti Mediaset, invece ha questo successo nazionale popolare, però comunque raggiungendo questo riuscito equilibrio fra profondità dei contenuti e accessibilità al grande pubblico, perché Quattro amici al bar parla comunque, no, di come il sano idealismo giovanile si rinnovi negli anni, generazione dopo generazione. E questo brano, che è il secondo singolo dell'album, Un sorriso gratis, ci parla di depressione, fra l'altro un disturbo di cui parli ha sofferto per quasi tutta la sua vita, non ne ha mai fatto mistero, ne ha parlato in tantissime interviste, e quindi però come la depressione si possa superare, comunque si possa riemergere con poco, appunto con un sorriso dato senza chiedere nulla in cambio. E quindi questa è la strada pop di Paoli, con appunto Sorpreso dalle ragazzine in prima fila ai concerti, è una fase che durerà qualche anno, poi lui tornerà nei teatri e tornerà al suo pop più raffinato. Rimaniamo in quel periodo 92 con questa versione di Il cielo in una stanza. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto violano non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me, su nell'immensità del nel cielo per te e per me. Nel cielo. E beh, una versione bellissima, intima, di un successo di oltre 30 anni prima. Questa versione Banzo del 1992 da un album intitolato Senza contorno, solo per un'ora. Qui però vale la pena fare un passo indietro e raccontare qualcosa sulla storia di questo brano. Beh sì, è un brano del quale la storia del quale è stata raccontata in molti modi, e devo dire nei giorni che sono susseguiti alla morte di Gino Paoli, ad esempio, l'ho vista riapparire su internet con enorme frequenza. È cosa nota che il brano parla dell'amore per una prostituta, e in queste citazioni che ho visto riemergere Paoli ammette candidamente di non ricordarne più il nome. Il soffitto viola era quello di una casa di tolleranza, insomma, e sì, la canzone inizialmente venne rifiutata e uno si chiede perché, com'è possibile, perché ovviamente col senno di poi sì. Avete mai fatto caso al fatto che il cielo in una stanza non ha un ritornello nel senso proprio del termine? Io non ci ho mai pensato, per esempio. Sai, è una canzone bellissima, cosa me ne frega, però effettivamente i discografici dell'epoca, insomma, ne facevano una questione importante e rifiutavano il brano. Fu rifiutato anche da interpreti come Yuda De Palma, Miranda Martino, ma poi arrivò nelle mani giuste, cioè quelle di Mina. Siamo nel 1960, su consiglio di un altro nome notissimo, cioè Mogol, che intuisce le capacità autoriali di Paoli, e diciamo da lì è tutta discesa, perché poi il brano diventa il successo universale che conosciamo. E però, come abbiamo già fatto per altri brani, bisogna sempre ricordare che era un mondo diverso, cioè che questo brano cantato da una donna nel 1960 era qualcosa di potenzialmente scandaloso. Ecco, nel 2026 ovviamente no, però è bene ricordarlo perché sono passati 66 anni. La contestualizzazione è importante, ma comunque diciamo che l'Italia e il mondo se ne fregarono, perché il brano per fortuna vedete 2 milioni di copie. E Paoli ovviamente dopo la incise, poco dopo, perché la ricordiamo anche nella sua versione, e come non poteva essere altrimenti la reincise in molteplici occasioni, come questa nel 1992 con all'armonica il jazzista Bruno De Filippi. D'altronde è inevitabile poi che uno delle pietre miliari della carriera attraversasse più di una versione, ecco. Noi arriviamo già al nuovo millennio per parlare dell'incontro con Ornella Vanoni, e incontro anche da questo punto di vista artistico, e con una canzone che ricorda anche, insomma, la gioventù di Gino Paoli, Bocca d'Asse, è uscita nel 2004 insieme appunto a Ornella Vanoni. Ti ricordi il sole nella casa al mare? Ti ricordi i fiori che curavi tu, i sorrisi rossi dei gerani appesi, sale sopra i vetri e sui tuoi capelli. Ti ricordi il vento nella casa al mare, quando c'era freddo e non lo sentivi. Non ricordo niente di quello che è stato, mi ricordo solo che ero innamorato. Quel che c'era intorno non contava niente, c'era solo amore, c'eri solo tu. Facevi bella per uscire insieme. Finivamo sempre per restare a casa a guardare la luce che accendeva il cielo. Ora stelle sono ancora lì. Non so chi per primo se n'è andato via. Non so quando pianto l'ultima bugia. I ricordi sono come dei bambini che sanno inventare quello che gli va. Penso la storia sarà più la stessa, sarà un'ombra azzurra che ci seguirà. Sei andato via. Non so quando pianto l'ultima bugia. Ti ricordi il sole? E ti ho detto che pioveva sempre in quel posto. Ti ricordi i fiori? E morivano tutti i fiori. Morivano perché il vento. Ti ricordi il vento? Me lo ricordo il vento. Il vento c'era, che facevi bella per uscire insieme. È che io ti aspettavo sempre in non arrivare. Non so chi per non primo, so chi per primo se n'è andato se via. Se n'è andato via. Ti ricordi il vento nella casa al mare? Quando c'era freddo e non lo sentivo. Un grande amore negli anni 60, un reincontro alla metà degli anni 80 con un album dal vivo, una tournée trionfale che ci ricordava anche proprio Stefano Senardi nell'omaggio a Ornella Vanoni, che tra l'altro era nata il giorno prima di Gino Paoli, 22-23 settembre l'una e l'altro. E poi appunto Fausto, all'inizio del nuovo millennio 2004, c'è un album invece di inediti. Sì, perché all'epoca non avevano prodotto nessun brano nuovo, ma la tournée dell'85 era di brani storici che si scambiavano. Qui invece abbiamo un intero album che si regalano per il loro 70° compleanno, appunto come hai detto tu, avevano praticamente la stessa età, per un giorno solo di differenza, e si regalano questo Ti ricordi? No, non mi ricordo, che fin dal titolo gioca sul fatto che, come ha scritto Paoli in alcune interviste, i ricordi sono delle invenzioni, sono solo un guardare gli eventi del passato con gli occhi di oggi. E in questo caso il brano d'apertura, che è questa Bocca d'Asse, ci riporta all'inizio degli anni 60. Bocca d'Asse era il borgo appunto genovese dove c'era la soffitta della gatta, quindi torniamo ciclicamente alle tematiche iniziali della puntata, e quindi si gioca sul ricordo della storia d'amore, come se la ricorda lui, come se la ricorda lei, e quindi questo gioco non più fra due innamorati, ma fra due vecchi amici che si trovano a parlare dei tempi andati. Fausto, grazie di averci accompagnato anche in questa puntata, ti aspettiamo presto. Certo, buona serata a tutti e a presto. Ciao Steven. E rimaniamo su uno dei grandi successi iniziali di Paoli in una nuova versione, Sassi. In questo brano però, in questa versione scusate, è molto recente, del 2021. Sassi e mare consumato sono le mie parole d'amore per te. Io non t'ho saputo amare, non t'ho saputo dare. Che ci c'è è stata detta mia. tanto vissuto mille volte, sa se che il mare è consumato, solo le mie parole d'amore per te. Una bella versione con groove, appunto qui Gino Paoli era accompagnato dai Funk Off, l'album 2021 Grooving with Paoli, quindi insomma tutte delle versioni dalla prima, accompagnato appunto Banzo dalla prima funk marching band italiana, ormai attiva dall'inizio del millennio. Una bella versione di Sassi, eh? Beh, non potrebbe esserci una più diametralmente opposta forse rispetto all'originale, non so, forse una versione gamela, una versione grindcore, non lo so, però effettivamente è un brano che nell'originale con l'arrangiamento di Gian Piero Reverber, un orchestrale quasi barocco, fra virgolette, decisamente diciamo che gli arrangiamenti, la banalità, gli arrangiamenti sono i vestiti delle canzoni, possono cambiare molto radicalmente, è un esperimento molto interessante. Però per quanto riguarda Sassi, la canzone in quanto tale, schiettamente come l'aveva scritta Paoli, l'aveva definita in una delle sue ultime interviste uno dei due brani del quale era soddisfatto al 100%, l'altro era Il cielo in una stanza, e diciamo un livello di autoesigenza piuttosto alto, perché qualche altra canzone carina l'ha scritta nella vita, come abbiamo sentito oggi. E forse Sassi, anche per tornare sempre alla Genova dalla quale tutto è partito, è la canzone più tenchiana di Gino Paoli a livello di ragionamento sull'amore, ecco, come sì, uso delle immagini, con le parole d'amore che sono come sassi levigati dall'acqua del mare, quindi diciamo un po' inutili nella loro eterna ripetizione, sì, ma in un certo senso inscalfibili. Ecco, è una metafora che si può leggere in molti modi diversi. Eh sì, noi siamo arrivati davvero alla fine di questa puntata e non vi abbiamo proposto, l'avete sentito, né Sapore di sale né Senza fine, ma insomma le abbiamo mandate in onda in più occasioni qui a Zibaldone. Quest'oggi il nostro viaggio è stato anche andando a cercare qualcosa forse di meno conosciuto o in versioni particolari di Paoli. Banzo, siamo davvero alla fine e ci andiamo ad ascoltare una cosa particolare e anche molto recente, perché parliamo del 2019, Paoli aveva già 84 anni e esce con un disco davvero particolare, Appunti di un lungo viaggio. Noi andiamo ad ascoltarci un medley assolutamente particolare, che è una specie di flusso di coscienza. Beh sì, ecco, diciamo, per quanto riguarda le strade poco battute, questo è l'ultimo album di inediti di Paoli, Appunti di un lungo viaggio, non è sicuramente fra i più famosi, ed è molto interessante a livello di struttura. Adesso arrivo al discorso del medley che facevi tu, perché è un doppio album con un secondo disco che si intitola I Ricordi, con un brano inedito omonimo e 13 rifacimenti dei grandi classici in chiave jazz, ma la parte diciamo più sperimentale, più di rottura, è il primo disco che si intitola Canzoni interrotte, e sono 4 mini suite intitolate alle stagioni, che poi sono divise in frammenti almeno a livello di titoli. Voi andate a vedere su Discogs per capire meglio, perché sì, sono brevi movimenti che confluiscono l'uno nell'altro, fra medley e flusso di coscienza, appunto, perché non ci sono ritornelli, non ci sono strofe, non ci sono rime, quindi sì, appunto, flusso di coscienza è forse una definizione adeguata. E alla fine, nei frammenti finali di autunno, abbiamo un dialogo con la moglie Paola Penzo, alla quale si rivolge chiedendole quando, nel momento della morte e della separazione, che desse il suo nome a un gatto e che lo accarezzasse sempre con le sue mani pigre. Quindi diciamo un commiato che in qualche modo, poi Paolo è morto dopo, però un commiato, un testamento spirituale che chiude il cerchio, ecco, torniamo sempre ai gatti. E noi abbiamo finito, anche perché il tempo è tiranno, dobbiamo chiudere la nostra puntata di Zibaldone. Ci salutiamo con quest'autunno, Uno come me, Quando me ne andrò, 2019, Gino Paoli, a cui abbiamo dedicato lo Zibaldone di quest'oggi. Ci ritroviamo venerdì prossimo e, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, alle 17.56, diceva tutti i venerdì. Chissà se poi adesso c'è veramente questo gatto che si chiama Gino, e se da qualche parte in Italia esiste una gatta che si chiama Ciaccola. Chi lo sa. Ciao a tutti, buon venerdì sera. Uno come me non ha illusioni, legge le parole dentro ai muri. Uno come me sano di fronte al dolore chiuso nelle spalle. Uno come me, compagno al sole, sogna dentro al buio della notte. Uno come me non ha bandiera e non vuol padroni da obbedire. Una come te mi scalda il cuore e diventa lei la mia padrona. Anche se ti dico addio, quando me ne andrò, ti porterò con me come un amuleto d'oro che porti sempre addosso. Quando me ne andrò, tu dimmi arrivederci, salutami con un sorriso che ti rischiari in viso. Ritornerò ogni volta che ti sentirai sola, ritornerò ogni volta che ti fa male il cuore. Quando me ne andrò, dai il mio nome a un gatto e accarezzalo sempre con le tue mani.